italiani fate la carità, non useremo questi soldi per la vostra città. Fai un esame di coscienza e dopo apri il borsello per pagare le troiette dentro il nostro castello. Fare i conti a fine mese, quante strisce donne spese. Dona ora, dona 1.000 euro per salvare un senatore. Tu puoi regalargli una vita un po' migliore, tra un viaggio a settimana, uno yacht e una puttana. Dona 1.000 euro anche tu. Da pagare per le loro auto blu, le riunioni con i soci però costano di più, il conto con il pusher per la festa in bianca, la cena al ristorante pure il credito in banca. Niente il conto a fine mese, fare il conto per le spese. Dona ora, dona 1.000 euro per salvare un senatore. Tu puoi regalargli una vita un po' migliore, i festini con la coca, uno slogan antidroga. Dona 1.000 euro anche tu. E caro senatore, perderemo la pazienza, sono fiero di essere italiano, mi fa schifo chi mi rappresenta. Voi la bella bambola, la bamba, la barca, la stampa, il plasma, noi con l'amore, la ganja, la panda, il piercing sulle labbra. Il mondo l'hanno rovinato quelli con giacca e cravatta, non quelli con i tatuaggi sulle braccia. Lo so che siete stressati per colpa del lavoro, bisogna camuffare le prove come nel caso Aldo Moro. Benvenuti nel fantastico gioco, titolo grande governo corrotto, partecipanti 600, ma in caso di ritiro ci saranno i vostri figli che otterranno il posto. E chiama il 23 45 68 per salvare un senatore affamato come il terzo mondo. E chiama ora, puoi salvarli solo tu, senti come soffre senza auto blu. Dona 1.000 euro per salvare un senatore, tu puoi regalargli una vita un po' migliore, tra un viaggio a settimana, uno yacht e una puttana. Dona 1.000 euro anche tu. Dona 1.000 euro per salvare un senatore, tu puoi regalargli una vita un po' migliore, i festini con la coca, uno slogan antidroga. Dona 1.000 euro anche tu. No, aspetta.